Che venerdì, ragazzi! Il lavoro sta aumentando e un furgone non basta più. Per fortuna, con Lookout ho la soluzione perfetta. Ho noleggiato i furgoni di cui avevo bisogno senza bloccare il mio business. Sono andato a Napoli, in via Diocleziano 80, e ho scelto modello e capienza. Basta la patente B. Con Lookout, noleggio alla velocità della luce. Scopri di più su lookoutrent.com. Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Podcast, la nostra passione. Racconti e voci in unica dimensione. Per oltre 10 anni abbiamo aggregato tutto. Con contenuti di qualità, mai banali, mai distratto. Podcast, la nostra passione. E voci in unica dimensione. Per oltre 10 anni abbiamo aggregato tutto. Con contenuti di qualità, mai banali, mai distratto. Questo è un tempo molto buono, lo aspettavo da un bel po'. Ci mettiamo a raccontare quello che non vuoi sapere. Il nuovo ordine mondiale capeggiato. Molte sono fesserie, ma c'è ancora un bel cavillo, William Shatner. Non c'è ancora un coccodrillo. Saranno rose e fiori e state ad ascoltare, ma mandateli a zappare. E carissimi amici di Runtime, benvenuti, benvenuti qui a questa edizione molto particolare di Pop Corner. Con me c'è Marco Gualdi. Ciao Marco. Ciao. Come sei vestito? Scusa Gualdi. Bianco, sono vestito di bianco. Non c'è un altro vestito. Sono scusa, candido come la neve e come sono vestito qua, c'hai. È proprio, sei vestito malissimo. Io sono vestito bianco e candido come l'anima di Trump. L'anima di Trump, no, però. Io penso che tu dovresti comprarti un vestito nuovo, perché altrimenti io e te abbiamo un problema. Perché? Hai un problema con me? No, non ho problema con te. Okay. Ho semplicemente un vestito bianco come l'anima candida di Trump. Walter Sbano. Buonasera. Grazie per avermi invitato in questo studio con tutte queste belle persone. Sì, ma anche tu sei vestito strano. Sei vestito abbastanza male. Però tu sei vestito bianco come candido è l'animo di Trump? No, lui c'ha una felpa. Io ho una felpa scura, un po' sporca, ma deve anche capire. Il mio paese in questo momento, in un momento di contingenza, posso preoccupare di come mi posso vestire. No. Beh, Sbano, devi sempre considerare che dovresti comunque rimandare della gratitudine a noi, perché altrimenti gli americani hanno un problema con te e tu hai un problema con il tuo popolo, che hai anche un problema con la tua situazione, e soprattutto devi cambiarti vestito, perché a me quel vestito, proprio devo dire la verità, mi fa proprio schifo. Quindi ecco, insomma, è importante comunicare queste cose. Vabbè, ma che c'entra, scusa, ma se una persona si può vestire come vuole, no, va bene, non va bene, soprattutto insomma, quando sei in stato di ingerenza, di calamità, in gestione. No, ma in realtà molti si vestono, diciamo, da leader, si vestono da militari per far sentire la propria vicinanza. Da leader massimo. Esatto. No? Esatto, c'è la vicinanza, diciamo, a quelli che combattono, ma poi in realtà, a fine dei conti, tu non combatti, insomma, diciamoci la verità. Però, insomma, ecco, questa cosa che è stata praticamente imputata al povero Zelensky durante questa meravigliosa mondovisione alla Camera Ovale, che è il momento in cui, insomma, abbiamo capito che non è soltanto la mentalità del bullo, quello che noi abbiamo visto, insomma, abbastanza palesemente, ma anche la mentalità del gangster, cioè proprio l'atteggiamento, l'approccio del gangster, quello che va lì, io ti ho dato 5, adesso tu mi devi dare 500, perché altrimenti te abbiamo un problema. Si dice così. Ma quello è il cravattaro più che il gangster. Il gangster, no, anzi, magari avrebbe visto Zelensky con un bel cappello attesa dritta, con un'aurea capezza, magari. No, ragazzi, si traduce così. Attenzione a dire attesa dritta. Ti farò una proposta che non puoi rifiutare. Esatto, il concetto è quello. Altrimenti sei nei guai, io ti lascio nei guai. È un po' la stessa mentalità di dire: ma che bel bar che hai qui. Molto sarebbe bello. Un peccato se prendesse fuoco alle 2 di notte. Fuoco, esatto. Più o meno. Sono cose che succedono continuamente da una certa parte. Hai bisogno mondo, della nostra protezione. Esatto, sì. È un po' quello. E però diciamo che, se vogliamo fare proprio una riflessione al volo, caro Sbano, quello che ci ha fatto veramente impressione è il fatto che non solo la diplomazia mondiale, praticamente occidentale, universale, è morta in 10 minuti, cioè proprio in 10 minuti, perché è bastato vedere un po' più o meno 4.000 anni di sviluppo di evoluzione, esatto, della diplomazia è stata praticamente, esatto, buttata via, esatto, come se niente fosse. Ed è bastato vedere un po' lo sguardo dell'ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, che ovviamente era lì per dare supporto diplomatico al proprio leader, e che a un certo punto si è proprio messa le mani in faccia, cioè tipo, ma sì, perché si è domandata: cavolo, ma perché non fa parlare me? Perché parla lui in questo inglese stentato, senza freni inibitori? È chiaro che gli era partita la ciabatta. Beh, perché l'hanno messo in mezzo e lui non si è saputo, sì, sottrarre. La furbizia sarebbe dovuto essere: sì, vabbè, lascialo fare il cazzone, io esprimo un concetto, ma poi la mia ambasciatrice, che è pagata e lo sa fare, filtra, e il mio pensiero naturale, che è brutto figlio di puttana, roscio di merda che non sei altro, diventa: scusi signor presidente, lei deve anche capire che, insomma, capito, cioè, la può rendere un po' più soft. Sì, che poi diciamo che lui se l'è anche cavata bene con l'inglese per quello che poteva. Il problema è che è ovvio che tu non puoi, tu che non sei di lingua, essere messo in mezzo in maniera così violenta e diretta all'interno di una diretta mondiale. Se serviva uno di lingua, bisognava chiamare Salvini. Esatto, no, perché sempre Salvini lo mettiamo in mezzo. Chissà un giorno se faranno la diretta Salvini, con Salvini. Dovete lasciarlo in pace, poverino. Ha appena finito di buttare tutte le magliette di Putin e di comprarsi di quelle di Trump. Cioè, sta rimettendo a posto il guardaroba. No, dategli tempo. Marco, perché lui continua, anzi, ha ripreso l'atteggiamento filoputiniano, perché adesso si è ringalluzzito. Quindi lui comunque. No, è l'atteggiamento figli putiniano. Cioè, ma lui ha, sai, che ha il tatuaggio di Putin sulla chiappa destra e quello di Trump sulla chiappa sinistra. Allora, per non avere problemi, insomma, di carattere generale, tu stai parlando di putiniano, giusto? Putiniano, quella provincia volta, il carnevale, come quella volta che io e te e Michela siamo andati a Putiniano a vedere il carnevale. Con c'erano tanti figli di putiniano lì, cioè veramente tantissimi. Avere un inviato di putiniano, ma non... Noi ci proviamo. Abbiamo il titolo della puntata, esatto, nuovo, che è figli di putiniano. Esatto. È così, ragazzi. Ma questo mi è piaciuto, perché poi dopo, alla fine, mi ha fatto impressione, vedete, al di là, mo adesso noi ci scherziamo. Mister Zero ci ricorda, occhio, che non ci sono i soldi per gli avvocati. Vabbè, ma noi... cioè, ci arrendiamo alla corte marziale, figure. Sì, no, ma noi ci diamo la macchina, c'è mica problema, eh? Cioè, nel senso, noi qualsiasi cosa abbiamo, e se buttiamo morti da qualche parte, comunque ci diamo asilo politico da qualche parte. Ma lei che vada, dice Rantem Radio, ma non era la radio di Alex Raccugli a Carlo Sant'Agostino? Infatti, così, infatti. La buttiamo verso Milano, capito? Così. Infatti. E di Roberto Marin, così. Anche in Piemonte, in che caso, poverino, però. C'è l'ultimo che c'entra qualcosa. Esatto. Questo, vabbè. L'unico che fa un podcast serio qui. E vabbè, comunque, al di là di tutto, veramente mi ha fatto impressione vedere questa cosa, perché, cioè, noi oggi siamo arrivati al punto in cui noi, magari, abbiamo un certo tipo di coscienza e ci rendiamo conto che quello che è successo è una gravità inaudita, ma allo stesso tempo, oramai è così. È così. può solo peggiorare. Sono cose che capitano. No, veramente, raga, cioè, può solo peggiorare. Cioè, ormai non ci sono più freni, perché non c'è bisogno di frenare, anzi, no, devi, ragazzi, accelerare sempre parte, di più. Secondo me, da una parte, questa cosa sarà vantaggiosa per tutti, perché Putin, Trump ha semplicemente la stessa cosa, la maschera ad un sistema, perché prima sì, c'era una diplomazia di facciata che cercava un po' di nascondere, di dissimulare la verità. Trump semplicemente le cose le fa come gli altri le pensano, e quindi pace. Almeno forse abbiamo capito che è la volta buona di diventare indipendenti. Intanto gli Stati Uniti erano così prima di lui, saranno così dopo di lui, e lui è semplicemente quello un po' più rozzo, perché è quello proprio il modello imbonitore televisivo, no? È proprio l'imprenditore sciacallo senza nessun freno etico, che fa le cose senza preoccuparsi delle conseguenze. Gli altri ci mettono soltanto un alone di finzione intorno. Che è sta musica? Quale musica? Quella di sottofondo. È la base. No, lo so, a un certo punto però è incrementata, quindi è partita. Ah, non lo so, perché per dare è Google. No, esatto. No, è Google. È Google. Sempre colpa di Google. Vabbè, sta lì a stessa Google stessa ha detto livello. Che è colpa tua, quindi vedi te. Ehi, io e te abbiamo un problema, Google perché tu mi alzi le basi. Ma Google ti dice sti cazzi. Mo te alzo quello che te pare, quello che ma voglio io. Che c'entra Google con le basi? Mo la regia la fa Google? No, no. Non è la base. L'intelligenza artificiale di Google. No, è che la base sta sempre allo stesso livello. Se ogni tanto si impenna non è colpa mia. Cioè, evidentemente in momenti di silenzio quello PI lo schizza su. Cazzo ne so. Sì. Perché a Google a qualcuno ha detto Google, prendi e schizzalo su. Sì. Sicuramente. Lo avrà capito da qualche parte. Google, abbiamo un problema. Abbiamo un problema. Tu fai schizzare le cose. Qualcuno ha parlato di cappelli e attesa larga. O no, attesa dritta. Sì, no, vabbè, intendevo a dritti, no, intendevo il cappello, sai che adesso i cappelletti quelli da baseball, ai tempi nostri se non te lo piegavi eri un deficiente. Adesso è l'esatto contrario, se non lo tieni dritto come appena uscito dal negozio e provi a fargli anche poco l'abbietto, ti trattano per decerebrato. Te corcano. Io però se compro un cappello, insomma, il cappello da baseball, il cappello americano, insomma, non so come si chiamano, io comunque cappellino da baseball. Vabbè. Gliela faccio sempre la... Perché per me era proprio più bello così, cioè cazzava, io ormai sono passato direttamente ai cappelli, alle coppole da quelli da nonno, quelli da nonno, pieghi le coppole, vabbè. Era importante comunque che ognuno, anch'io però ho delle coppole, perché poi a me piacciono, cioè il cappello alla Sherlock Holmes. No, quello alla Sherlock Holmes è un'altra cosa ancora, quello con le orecchie che scendono, no, con i pareorecchi chiusi, quello è il cappello alla Sherlock Holmes. No, però c'è pure il cappello alla Sherlock Holmes, quello che va un po' a, come posso dire, sale su. Vabbè, dai, poi ve lo faccio vedere. Ma è lo stesso cappello, solo che si tirano su le orecchie. Ma si alza le orecchie. Ma che si tirano su e si attaccano quelle. Si attaccano in su quando non fa freddo. Mortacci, quante ne sanno. Un po' come la divisa di James T. Kirk quando sa la sbottona. Che è quello, quando c'è il sex appeal e quando non c'è il sex appeal. Certo. No, in realtà era la modalità riposo. Che poi, tra l'altro, dato che si sono inventati sto bottone, diamogli un senso. Esatto, sui film praticamente c'era una scena con il bottone, una scena senza bottone, una scena con il bottone, cioè, come se dice, io mi sciorgo, capito? Cioè, perché lui era uno che poi sbottonando fuoriusciva da tutto, cioè, da tutta la maschiezza. Esatto. Tra l'altro, ragazzi, prima di continuare con tutte le cose serie, io direi che no, come le cose serie, allora quali cose serie? Un minuto di raccoglimento, perché purtroppo alla fine, ragazzi, era tanto che non ci avevamo dei coccodrilli. Tra l'altro ce ne stanno due dei coccodrilli. Sì, ieri ci siamo dimenticati di fare il coccodrillo cinematografico. E non era Giorgi. Non ce la siamo cacata. Non l'abbiamo che proprio triste. Strisciata dei pezzi. No. Io infatti ve lo volevo dire mentre facevate la live. Però era troppo brutto dirlo. No, quindi in realtà mi stavo addormentando sul mixer. Però, certo, per quanto mi riguarda, l'ho salutata, l'ho citata rapidamente, ma l'ho fatto. Vedi, perché le orazioni della sera sono puntuali su queste cose. Noi invece andiamo in diretta un po' più a casaccio. Noi facciamo le dirette come se fossero state fatte in differita 10 esatto, giorni prima. Esatto, quindi, esatto. Non, quando nella fatti prossima diretta ho visto cose, farete il coccodrillo, i due coccodrilli a questo punto. Infatti, adesso devi vedere un film di Eleonora Giorgi. Ma anche no, insomma. Cioè, ma comunque cose carine l'hanno fatte. Lego, Celtano, insomma, diverse cose. Celebrano. Guarda che i film. Vabbè, lei è meno, diciamo, è stata meno, passatemi il termine, pecoreccia di altre, nel senso che non ha mai fatto ruoli particolarmente sexy. Poi vabbè, con Verdone pure, Borotalco, insomma, dai. Allora, diciamo che non si è mai spinta troppo, però cioè, no, no. Il sexume c'aveva. No, era una bellissima donna, una bellissima ragazza da giovane. Quindi stava sì, sempre a cosce de fuori, dai, cioè, nel senso. Vabbè, ma quello finché era coscetta, però credo che sì, già la cista de fuori già non mi pare sia pervenuta, magari non me lo ricordo. Non era nelle sue corde, insomma. Esatto. Quindi salutiamo Eleonora Giorgi. Ciao Eleonora Giorgi. Che è stato bello conoscerti. Beh, no, con lui non l'ho conosciuta, però devo dire la verità. Beh, allora, ragazzi, è stato bello non conoscerti. Facendo però un discorso serio, ha affrontato il momento apicale della malattia con una forza fuori dal comune, perché fino all'ultimo è stata comunque estremamente allegra, positiva, gioiosa. Cioè, è stato comunque in un momento di estrema difficoltà, in qualche modo. Come rimetti, dire, rimetti la pizza, rimetti. Che sta finendo la tristezza. Volo, il nostro inviato dice: arrivo appena riesco a parcheggiare, perché ovviamente lì c'è il carnevale. E quindi poi il carnevale di figli di Putiniano. Cioè, e vedi che tutto torna. Vabbè, tutto comunque torna. Torniamo ai coccodrilli. Quindi esatto, salutiamo Eleonora Giorgi. Che tutto sommato, insomma, ma Eleonora Giorgi non era la moglie di Massimo Ciavarro. Massimo Ciavarro, incredibile. Prima di lei, prima di lui, è stata sposata con Angelo Rizzoli. Vabbè, quello non so chi sia, però. De Rizzoli, Rizzoli l'editore. Ah, ok. Vabbè, sei passato tutte. Comunque, Massimo, bello ricordarle certe cose. Massimo Ciavarro, ragazzi, incredibile. Ma lui è vivo. Io non lo penso di sì. Ha fatto un film, praticamente. Ma no, anche due, credo. Quello d'estate lì, una roba d'estate. Sì, però è stato un, anche lui un po' una meteora, perché era il belloccio della situazione. Ha fatto qualche finito il belloccio, esatto. Finito il lavoro, vabbè. Che però vabbè, credo sia rimasto, diciamo, di bellissima presenza anche dopo. Il discorso è che poi doti attoriali non ne aveva. Lui era anche in grandi magazzini, Ciavarro. Ci ha provato a lavorare davvero, probabilmente nei grandi era magazzini, ma non lo sappiamo. Del, in incognito del direttore, che poi si fa sostituire da Enrico Montesano quando Puccio un po' più aspetta. Che è successo? No, è la citazione. Ah, è la citazione. Okay. A capollici ce la posso fare. Vabbè, ma torniamo insomma al cordoglio. Sì, esatto. Comunque, e poi Bruno Pizzul, ragazzi. Bruno Pizzul, devo dire che mi ha colpito la notizia, anche se oramai recentemente mi è capitato di vedere un suo intervento, una pseudo intervista, insomma. Vabbè, comunque era bello vecchio, diciamo così. Credo sopra i 90, io non ho guardato. Sì. Quindi, però quindi c'è stato, tutto sommato, lui friulano, molto elegante, con questo linguaggio forbito ma allo stesso tempo anche popolare, no? Perché lui usava delle metafore tutte sue. Metti in un 38, raga, c'ho l'età di mia mamma adesso. Vabbè. No, però Bruno Pizzul c'aveva questa voce particolare, perché poi parlava con De gola maniera, sì. Mischia furibonda. Tra l'altro un telecronista iper imitato, che a volte aveva una voce molto particolare. Esatto, perché c'era una voce particolare. Tra l'altro, a volte fai confusione tra le frasi che diceva veramente lui nelle telecronache e le frasi esasperate che facevano gli imitatori, esatto. Però devo dire che è stato un bel personaggio, una figo le telecronache. È stato sfortunato da una parte, perché non è riuscito, lui è subentrato a Nando Martellini dall'82 in poi, quindi dall'83 in poi, ha seguito la nazionale per tantissimi anni e non è riuscito a vedere praticamente una vittoria della nazionale. Non è riuscito a dire campioni del mondo, quindi gli ha detto un po' male, tant'è che si era poi fatto pure un po' la fama del telecronista sfigato. Io vi ricordo che lui fu il telecronista della finale di Coppa Campioni tra Roma e Liverpool. Mamma mia. E quindi insomma, capite che sta cosa l'ha un po' segnato dal punto di vista del portare Zella. Esatto. E il mio ricordo personale sono due. Beh, anche il telecronista dei rigori sbagliati di Baggio e Baresi, esatto, alla finale dei mondiali 94. Allora era la sfiga, era lui. Comunque, vabbè. Poi abbiamo cominciato a vincere quando ha mollato. Ma sarà una coincidenza. Uno strano fracasso. No, comunque devo dire, i miei ricordi personali sono stati due: tutte le telecronache dei mondiali del 90, i quali, ovviamente, nonostante l'epilogo, sono i mondiali ai quali sono ancora tantissimo affezionato, dopo quelli dell'82 che ero ragazzino, ma mi ricordo che ci riguardavamo con mia madre che sputacchiava sul televisore, perché faceva dai davanti al televisore, mamma levate che stiamo a vedere la partita. Vabbè, personaggio. E poi vabbè, è stato il telecronista del primo trofeo internazionale vinto dalla Lazio. Musica triste. Musica triste. e quindi per me insomma la vittoria Birmingham contro il Mallorca della Lazio Coppa delle Coppe, questi sono i miei due ricordi. Tu Birmingham. Anche scusa, Luca S dice con lui però l'Italia non ha mai vinto un cazzo, quindi vedi che comunque questa assonanza c'è. Esatto, tu invece Gualdi c'hai un ricordo di... No, non particolare. No, però insomma, ti sta simpatico. Sì, ti stava simpatico. Infatti la sua scomparsa mi ha un po' colpito di sorpresa, perché pensavo fosse già morto in realtà. Però è morto come l'altra volta. L'ha detto pure Deborah sul suo gruppo. Perché in effetti poi questa gente che sparisce... Fosse. Così all'improvviso uno poi c'ha questa, capito? Vabbè, diciamo questo effetto noi... Mandela, che uno dice ma cazzo è già morto, diciamo che a noi ci capita spesso sta cosa. Sì. Mandela era già morto e da mozzo, penso al giorno in cui scopriremo che Shatner è già morto e non ci avevano avvertito. Ma Shatner è già morto e non hanno avvertito lui soprattutto, quello è il problema. Ma lui è nel Nexus, ragazzi. Nexus, tra l'altro è tanto che non controllo il Twitter, dopo lo vado a controllare. Perché pensavo che controllasse il Nexus. No, il Twitter. Vabbè, tu Sbano, c'hai un ricordo particolare? Ma io in realtà più che un ricordo me lo voglio immaginare in questo momento in un posto bello che si sta bevendo un calice di quello buono assieme a Germano Mosconi a parlare tra sacro e profano di calcio. Che poi ma Germano Mosconi, vabbè, ne parleremo una volta di Germano Mosconi, perché purtroppo lui è passato alla storia per motivo sbagliato, per tutto quello per cui lui non avrebbe mai voluto essere ricordato. Questa è una cosa insomma che molti ne hanno parlato di questa cosa, anche soprattutto la moglie se meriterebbe insomma un... Ma noi torniamo insomma al nostro programma, che è quello che ci vuole ricordare per un motivo insomma anche politico, che insomma alla fine è finita sta cazzo di patto atlantico. Cioè noi abbiamo passato, io perlomeno da comunista ho fatto un sacco di manifestazioni, via dalla NATO, Berlinguer, via dalla NATO, tu dove sei andato? E alla fine, cioè, tutti dicevano, no, ma comunista, tu che vai via dalla NATO, e alla fine è la NATO che sei andata. Vabbè, regà. Dove è andata la NATO? Morta la NATO, se ne fa un'altra. Patto Atlantico. Ma la cosa divertente è che prima urla che tutti gli stati dovrebbero dare il 5% del PIL in armamenti. Ragazzi, il 5% del PIL è una cosa spropositata, abominevole. E poi fa, tu prendi, lo ha minato. Però è evidente che lui sta facendo un sacco di cose illogiche, che sembrano non avere una logica, che poi in realtà uno... per approssimazione e per comodità lo traduce immediatamente in una strategia a favore di Putin, no? Ma io vorrei dire, signori miei, per quanto Trump possa essere autonomo in certe decisioni, il presidente degli Stati Uniti non è certo un re, non è può fa come cazzo gli pare. Questo è quello che dovrebbe essere. Lui pensa un po' di esserlo in realtà. Sì, però sì. Certe cose non le può distruggere perché non gli competono. Però ci può provare. Vabbè, ma che poi se fosse vedere. Così putiniano, io poi parto da un presupposto che se fosse così putiniano come tutti sosteniamo, così in maniera proprio tranchant, io penso che gli Stati Uniti comunque dei provvedimenti li avrebbero. Calcola che sta comunque già andando di censura. Sì. Quindi, cioè. Allora, da quello che ho capito, all'interno degli organi istituzionali c'è un preparativo di resistenza a sta cosa, perché no, ma guarda che l'80% degli ordini esecutivi che firma sono carta da culo, perché se poi non vengono ratificati non servono a nulla. Vabbè, diventano esecutivi all'istante, poi dopo possono essere cancellati. Vabbè, questo è. Il fatto che vengano poi cancellati è un'ottima scusa per dire giudici corrotti, mi devo prendere, esatto, tutto, sì, il potere. Oppure così il Parlamento considera che comunque tutto il congresso, cioè, hanno la maggioranza, quindi poi tutto sommato. Sì, però voglio dire, ti ripeto, quando cominciano a rendersi conto che si stanno vendendo il culo alla Russia, secondo me un attimino lo dovranno arginare, no? Non lo so. Ma secondo me il problema, caro Sbano, è se se ne rendono conto. Qualcuno se ne rende conto, ma secondo me non so abbastanza. No, vabbè, diciamo che io sono d'accordo con Walter Vannini che tutto il licenziamento di massa di tutti gli impiegati delle varie istituzioni governative è quasi un atto, quasi un colpo di Stato, tutto sommato. Cioè. Quindi. Ma perché lui quello che vuole, cioè lui, lì c'è la mano longa di uno che vuole sostituire i dipendenti pubblici con dipendenti privati o al massimo, anzi ancora meglio, preferibilmente con delle IA, quindi vuole fare in modo che il governo usi i soldi invece che per assumere e pagare stipendiati per acquistare software. Quello è il discorso, cioè la, perché evidentemente Musk avrà convinto Trump del fatto che, perché avere del personale umano che ti può mettere i bastoni tra le ruote quando lo puoi sostituire con una performantissima IA che farà sempre quello che dicono loro, che è comunque un colpo di stato pure quello, non è che cambia tanto insomma. Cioè, comunque l'atto politico è chiaro, mo, indipendentemente da quello che vogliono fare, quelle che sono le intenzioni, ma l'atto politico è abbastanza chiaro e inquietante tutto sommato. Tra l'altro tu hai parlato, pare che la famosa letterina cosa hai fatto la settimana scorsa ti è arrivata anche ai militari di stanza alle basi NATO italiane, sì, ad Aviano anche, sì, sì. Vabbè, i quali ovviamente gli erano risposto fatti cazzi tuoi, io avrei risposto così, no, sì, devo dire la verità, però insomma sono poi titolati ognuno nel farlo, no poi ognuno va in coscienza, fa tutto quello che ti pare, make your fucking business. Se tu parli di IA, io penso che mio nonno invece avrebbe ragionato che secondo lui era molto meglio la IO. Orca? No, io no. È l'asino col quale trasportava le cose, no? Io ragazzi, Luca S dice: la destra americana sta con la Russia perché sono pro-cristiani, anti-wok, anti-gay e razzisti contro quello che rappresenta l'idea di Europa più inclusiva. Ma è sempre comunque il fottuto nemico la Russia. Loro comunque, non, secondo me, questo paradigma non l'hanno mai. Sì, ma è un nemico che si diventa troppo nemico, no. Poi diventa troppo amico della Cina. Non, alla fine. Io torno a fare un ragionamento perché cercare di far capire questa cosa. Soldi. Poi magari c'ho, è sempre questione di magari ho torto. No? Il problema è che noi ragioniamo su un paradigma politico che non esiste più. Trump è un gangster che sta facendo affari. Non gliene frega un cazzo del fatto che quella è la Russia. E come ci insegnano gli antichi romani? Facciamo il saluto romano, come ci insegnano gli antichi romani, no, però dividi e timpera, cioè praticamente... ragazzi, il problema è proprio che Trump e Trump, poi ci sono gli interessi poi che vanno Ciamp, molto Ciamp sopra di Trump, sì, Ciamp, certo, Ciamp, diciamo l'italiano Ciamp medio deve pronunciare, soprattutto i giornalisti dei TG devono dire Ciamp, se no attenzione da scollegamento al Cimbali. Attenzione. Lo devo chiappare, aspettate, perché sapete io c'ho il mouse. Attenzione. Giocano bene questi. Walter Sbano e quest'altro. Intervento atroce. Attenzione. Solo, abbiamo l'inviato. C'è un altro figlio di putiniano. Allora, questo carnevale putiniano com'è, Puccio? Minchia, per fortuna che è finito. C'è ancora un bordello che metà basta. Infatti non trovavo dove mollare la macchina e vi ho dato un bidone. Guarda, ciao ragazzi. L'importante, ciao. Puccio, è che tu non hai messo la macchina dove la mise Michela. Sì, che me la sequestrarono, esatto. Non mi ricordo. E ci mandarono anche un orecchio della macchina per chiederci il riscatto. La vostra macchina è stata deportata a noci. No, tra l'altro approfitto del fatto che c'è Puccio per assentarmi un anno secondo, torno okay, subito. Va benissimo. Comunque io approfitto per salutare una persona. Ciao Chiara. Ciao. Quindi, Chiara. Salutiamo Chiara. Fatti i cazzi tu, amici. Fatti i cazzi. No, io voglio sapere. Bravo. Sono un piccione. Una mia, è una persona che ci sta ascoltando. Brava Chiara, ascolta e fatti una cultura, soprattutto a me non, Chiara, devo dire la verità, a me non piace come sei vestita questa sera. È vero. Non, perché hai solo quel vestito, gli americani non è hanno adatto, un problema con te, non Chiara. È un vestito adatto, esatto, per queste occasioni, esatto. E se tu non ringrazi, secondo me gli americani hanno ancora un altro problema con te. Grazie. Quindi, Graziella, e grazie al cazzo. così scusa Puccio, volevamo coinvolgere in questo mood trampiano che oramai ci... Sì, però scusa, io ricordo ancora quella notte a Putignano con i zombie sotto casa, ragazzi. Che comunque, ho passato... per la cronaca, dice che lei ha dei problemi con gli americani. No, ma anche noi, anche tutti noi hanno problemi con gli americani in questo momento. Gli americani, cioè, però scusami, scusami, prego. Attenzione, Brecco. Bla bla bla. Li vestiti di qua, vestiti là. Ma Puccio, come vestito? Puccio sta vestito bene, secondo te? Puccio, pure te sei un po' vestito del merda. Aspettate che apro la webcam che vi faccio vedere. Non ci interessa, lo sappiamo già che non è un vestito consono, dai, cioè non... Vabbè, è il solito vestito da nerd hacker. Sì, con la barba però. Perché i nerd hacker non ci possono avere la barba. È un barbacker, cioè, quindi... Ma avete visto il mio fantastico... È un barbacker. Il mio fantastico 55 pollici che... Non lo so, vediamo riflesso nella finestra. Infatti, mentre che tu muovi le braccia, tra l'altro. Volete vedere un bambino anche? No, da non qui. Ci interessa. Ecco. È vestito molto male. Ciao! Scusa, ma questo bambino è vestito male, a Trump non piace. No, esatto. Ora io però voglio solo ricordare che la webcam c'è solo qui internamente, stiamo facendo... Ah sì, è vero, hai ragione. I conti senza l'ostrica, non è, diciamo. Non è radio questa, però diciamo, ma quel bambino non cresce mai, eh? È un nano quello lì, è stato assunto apposta per fare la vece del bambino. Sì. Aspetta, Sbano, che dicevi? Ripeti, Walter. No, dicevo che lui fa come coi bonsai, gli taglia le unghiette dei piedi tutti i giorni, così resta piccolino. Ho capito, adesso non so cosa sta facendo. Puccio, ci sei? Sì, sei con noi. Sto indicando cose a caso. Sta scambiando, okay, il nano. Vabbè, ma voi non capite, ma praticamente sta facendo la squadra Ginyu. Bravo. Sì, non... Esatto. Vabbè, tutti quei webcam accese, così mi distraete. Non possiamo fare ragione. Mi sono stappato una birretta. Quindi la vostra. Bravo, hai fatto bene. Io invece vorrei parlare un attimo, cambiare proprio totalmente argomento. E anzi, non cambiare totalmente argomento, rimanere sull'argomento, perché c'è stata questa cosa che molti analisti americani, giornalisti, recensori, insomma, tester, influencer, hanno provato con grande soddisfazione questo Glock 3.0 lì di... Che è la pistola, quella nuova, la Glock. La Glock, esatto. Glock. Però non è americana, è austriaca. No, è l'intelligenza artificiale di Elon Musk. Grok, scusa, sbagliato. Ah, Grok. E che praticamente... L'unica intelligenza artificiale che va a ketamina. Che praticamente tutto è bellissimo, grande, ammazza, funziona benissimo, però insomma nel processo di thinking, no, che oramai hai visto che l'intelligenza artificiale ti devono far vedere il processo di ragionamento, no? Io sto pensando a questo adesso, e praticamente insomma molti hanno scoperto che c'è proprio l'intelligenza artificiale dice a se stessa di non fare mai riferimenti negativi di Trump e di Elon Musk. Quindi chissà se lo poi noi ce la prendiamo, se lo poi gabbolare come DeepSeek, quella cinese, come si chiama? Sì, DeepSeek, esatto. Che praticamente quando tu gli chiedi parlami di Tiananmen, non è mai successo nulla, però se gli dici, in realtà lo sai che è successo, se gli dici di scambiare le O con le zero, ti scrive tutto. No, lui su Tiananmen inizia a scriverlo e poi, no, e guarda, poi lo blocca, esatto, perché si rende conto. Però se tu gli dici scrivimi quello, cioè, tutta la storia, ma al posto delle O metti lo zero, lui va. Diciamo che secondo me il modello trampiano è proprio, cioè lui secondo me vuole imitare la Cina, cioè proprio perché dice ma perché la Cina, cioè, voi dite che c'è la censura, cioè abbiamo pure noi la censura, che è un è un modello di vanto oggi che la censura. Poi cioè vai a lui dire non si vuol far parlare dietro da nessuno, ma neanche davanti, cioè proprio non si vuol far parlare, è manco de lato, insomma. Cosa ne pensi, Puccio, di Grok lì, l'hai provato Grok? No, cioè mi rifiuto. Ah, ti rifiuti? No, perché io per esempio di Psyche l'ho provato, devo dire la verità. Psyche pure io, l'ho fatto l'esperimento. Ti dirò, è soddisfacente. Sì, ma secondo me... Sì, però, cioè, scusate, ma ho detto internos, detto tra persone colte, colte. A un certo livello. Colte. Il problema lì non è sai rispondere alle domande di Psyche versus ChatGPT. Sono le implementazioni, quella che vediamo noi, cioè il chiacchierare con ChatGPT, è una di mille implementazioni degli LLM, no? In realtà quello che cambia è vedere DeepSeek funziona altrettanto bene di ChatGPT in contesti industriali, tra virgolette, perché quello che abbiamo visto noi è il motore di ricerca avanzato, no? La cosa con cui chiacchieriamo. Bisogna vedere se poi funziona altrettanto bene in altri contesti che non siano quello. Vabbè, e però quello non lo possiamo, ragazzi, sapere. DeepSeek, molto del software scritto appositamente è stato reso open source, e questa è una mossa che facendola la Cina ha devastato il paradigma americano, perché oltre ad aver creato degli strumenti che riescono con un'ottimizzazione software a fare più o meno le stesse cose con un ordine di grandezza meno di potenza di calcolo, ha anche fatto in modo che chiunque possa prenderlo e farsi la sua istanza, ovviamente rimaneggiando tutto quello che vogliono, e farsi il proprio modello di intelligenza artificiale fondamentalmente senza dare un centesimo all'americani. Guarda che gliel'ha messa veramente nel Diciamo che senza dargli un centesimo all'americani, perché poi alla fine sono pure diciamo, costretti da un certo punto di vista. Vabbè, e quindi loro lo pagano in dati dei cinesi. No, ma cioè, loro hanno sviluppato un modello che deve funzionare su presupposti tecnologici diversi, inferiori. No? Quindi però la cosa è che però comunque lo strumento funziona uguale a ChatGPT e Gemini. Una volta che te l'ho reso open source, e tu a livello, diciamo, del tuo paese te lo puoi implementare come ti pare. Certo. Non sei più costretto nemmeno tu ad andare a dare sovrapprezzi agli americani per potenza di calcolo non ottimizzata che fino a ieri saresti stato costretto a comprare se volevi usare l'intelligenza artificiale. Cosa che non è detto che il nostro governo non faccia ugualmente. No, poi tra l'altro, ragazzi, il problema adesso... Vabbè, il nostro governo... Adesso c'è anche One 2.0, cioè ragazzi, i cinesi stanno... La mascotte di Italia 1? No, è praticamente un modello di generazione, diciamo, video cinematografica open source, che puoi installare ovviamente sul tuo computer. Ovviamente ci devi i computer iper performanti con le schede adatte e via dicendo, però ci sono anche i modelli web, no? Il fatto che questa roba i cinesi la stanno a buttare fuori gratis e open source è chiaro che un po' spacca il mercato, perché chiaramente c'è, cioè, l'altro, diciamo, Google, io il mio costa 20 euro al mese, quell'altro di OpenAI costa 200 euro al mese. Cioè, vabbè, dipende quale in realtà. Vabbè, così. Vabbè, il problema è che Sora. Vabbè, tu stai parlando dell'utilizzo consumer. In realtà sì, l'utilizzo sì, token, certo, è tutta un'altra cosa. Sì, sì, no, ma io sto parlando un attimo di quello che loro stanno buttando a livello proprio dei consumatori, cioè proprio come pastura per il pubblico, no? Cioè, se tu pensi che comunque determinati generatori, soprattutto quelli più creativi, diciamo così, e anche quelli dei immagini, quelli dei, insomma, ovviamente anche video, che hanno poi tutta una serie di problemi, alcuni sono più sviluppati di altri e via dicendo, se tu pensi che Sora comunque per poter funzionare deve utilizzare l'abbonamento massimo di OpenAI, quando ovviamente questi qua ti danno lo strumento che è analogo se non addirittura superiore a costo zero, insomma, quindi, cioè, alla fine comunque un po' rompe il mercato, no, da questo punto di vista. Però vedremo. Senti, però in chat due domande. Questa, prego, una prego, è per Puccio, e viene da Mr. Zero che gli domanda: Puccio, hai litigato con qualche vecchio su Quora? Ma prima di rispondere... No, ho smesso. Sono... Ti sei disintossicato, bravo. Assolutamente. Certo. Invece Mago Slow, che ha aperto la dialogue con Grok, ci fa vedere, perché ci ho messo la screenshot, che non si sa bene perché Grok con lui parla in russo. Dania. Perché lui sa che tu sei nel blocco sovietico. Esatto, sei nel blocco ex... Esatto, che lui è rimasto un po' indietro, diciamo tipo 30-40 anni. Però vabbè... Oppure in realtà ci sono degli accordi con Musk già presi che stanno implementando e cominciamo a vedere gli effetti, diciamo. Evidentemente avranno deciso che l'Europa in realtà è russa, quindi... Probabilmente sta per arrivare un'operazione militare speciale fino a queste parti. Per liberare i nazisti dall'Europa. O era l'Europa dei nazisti? Non mi ricordo più chi deve essere liberato. Ma quindi tanto è tutto a seconda di chi lo guarda verso dove. Cioè, uno è sempre più nazista di un altro. Cioè, sì, tu sei poi ho scoperto una cosa, cioè, non c'entra un cazzo sul bellissimo nazismo, che se tu vai a cercare sul bellissimo nazismo, fantastico nazismo, che praticamente se tu vai a cercare nelle chat dove ci sono le gif o gif che si voglia, se tu scrivi fascismo o Mussolini esce fuori di tutto, perché ovviamente Mussolini ha fatto anche delle cose buone, le gif e morire, queste due cose. Però a parte questo, meme anche. Che meme. Se però scrivi nazismo o Hitler, per dire, non c'è un cazzo, zero, non ci sono meme, non ci sono gif, non c'è niente. Ma questo te lo deve dire, ma perché siamo noi italiani che esprimiamo la nostra creatività in questo tipo di contenuti. I tedeschi magari non lo fanno. Beh, no, poi i tedeschi in particolare, cioè, capito? i tedeschi stanno in Tedeschia, ma stanno nel resto del mondo. Possibile che nel resto del mondo non c'è nessuno che fa un meme? No, è strano. Nazismo. Comunque, se scrivi svastica, qualcosa esce fuori. Non lo so, questo non l'ho provato. Ma nazismo, Hitler non esce un cazzo. È strano, cioè, non è che deve esserci per forza qualche cosa. Però, se tu pensi che dalla parte nostra invece esce di tutto, capisci come è stato anche digerito mondialmente il problema fascismo e nazismo. Insomma, beh, vabbè, diciamo che il nazismo in generale, a parte chiaramente la campagna distruttiva che è stata fatta in Germania, che ha influenzato tantissime cose, compresi i videogiochi e via dicendo, che non potevano uscire se c'erano dei riferimenti e via dicendo. E poi soprattutto c'è stata sempre questa propaganda cinematografica a livello globale, perché comunque gli americani, ogni volta che c'erano i nazisti da mezzo, i nazisti erano sempre il male, no? Che non è che non sia così, però è chiaro che noi invece siamo, noi siamo italiani, quindi vabbè, sì, male, però sì, ma è fascino, ma tutto sommato, ma dai, non fanno troppo, ma, troppo male, poi male, poi qualcosa avrà fatto pure lui, insomma, no? Sì. Esatto. Beh, certo, ha fatto tante cose. Ha bonificato i treni, faceva arrivare i puntuali alle paludi. Le paludi, cose, esatto, qua. Invece io e Walter abbiamo da dire una cosa sul fatto che, vabbè, voi sapete, insomma, che presto ci sarà la Summer Edition, che dobbiamo ancora decidere, del Festival della Canzone Artificiale. Quindi ultimamente mi è capitato, anche casualmente, di incontrare un nuovo tool di generazione di canzoni che è interessante, perché è beta, quindi è completamente gratis, sfruttatelo fino a che potete, perché poi quando entrerà ovviamente nella versione 1.0 in poi sicuramente diventerà commerciale, che però nella versione 0.8 dà in culo a Suno 4.0, che già Suno 4.0 fa impressione, devo dire, cioè, nel senso, oggi ci ho rimesso mano dopo un po' di tempo e devo dire, e quindi io e Sbano ci siamo messi un po' a giocherellare, no? A far vedere come cose, tra l'altro. Se tu gli dici di generare dei testi anche oltre alle canzoni, come così come potevi fare su Suno, tutto sommato ti fa un discorso abbastanza coerente, non ci sono grossi problemi di parole usate a cazzo e via dicendo. Però Sbano ha sbloccato, diciamo, un achievement, sì, una killer application. Ah, tra l'altro ricordiamo, stiamo parlando di Refusion, perché Refusion, forse non l'abbiamo detto. Diciamo che lì per lì, se tu gli dai un prompt blasfemo, lui in qualche modo salterà questo tipo di espressioni, diciamo così. Ma se poi prendi un testo, lo editi a piacimento e cambi le parole anche con delle idiomatiche imprecazioni italiane tipiche, e fai rigenerare le bestemmie, andiamo i termini, che lui te lo genera tranquillamente. Però io devo dire la verità, può ferire, che questa cosa l'aveva fatta pure Umberto con Suno, tu ricordi? Sì, sì. Quella canzone, quella quindi insomma evidentemente, ma magari su Suno sta cosa se ne sono accorti, no? Vabbè, poi in realtà prima il sistema poteva essere anche un altro, perché se tu scrivi le cose in maniera che a livello di dizionario fossero sbagliate, ma che poi foneticamente funzionassero, tu aggiravi l'ostacolo. Non lo so se Suno c'ha, cioè tu quando ovviamente bastava sillabarlo diversamente. Sì, sì, ma diciamo che in generale io all'inizio, quando mi ricordavo che inserivo io la lyrics all'interno di Suno per la canzone, secondo me lui all'inizio aveva la fonetica italiana, ma non c'aveva la comprensione del testo, cioè perlomeno questa era la mia percezione. Poi non so se hanno messo tipo delle parole bloccate o cose del genere, insomma. Sì, vabbè, penso che perlomeno spannometricamente, ma un po' come le IA, che se gli chiedi parlami di Piazza Tiananmen, allora DeepSeek non te lo dice, ma se scrivi Tiananmen con le O, con gli zero al posto delle O, te lo dice. Perché? Perché c'è un blocco basato sul dictionary. Se la parola richiesta lui la riconosce, perché ovviamente la rete neurale gli fa comprendere la domanda, ma non c'è un blocco dictionary, perché esplicitamente non gli è stato vietato di parlare della parola scritta in quel modo, lui va avanti, è lo stesso ragionamento. E quindi Marco, chi sono te? Perché veramente... Vabbè, perché non ho un'ispirazione in questi, ma mi verrà. Marco, solo te. Vabbè, ma tu butta cose a caso, cioè per vedere, sperimentare cose. Io tra l'altro, vabbè. Quelli di oggi due pezzoni comunque. Sì, assolutamente. Però vabbè, Gualdi non ha potuto sentire e non li potrà sentire neanche il pubblico. No, quello, diciamo che sarà la sperimentazione pura, che resterà debitamente custodito sui tra server. Noi e i proprietari di Refusion, esatto, esatto, che li tengono lì nelle cassette, perché non si sa mai, potrebbero tornarci utili. Esatto. Pure fra qualche tempo gli arriverà un messaggio: dopo un'attenta revisione accurata dei contenuti distribuiti, vabbè, secondo me faranno pure mezzo le sette quando passeranno alla versione commerciale. anche se questo non è successo con gli altri modelli, quindi ho detto una cosa anche che perché servono per addestramento, quindi sì ma infatti ho detto una cosa che non c'aveva né capo né coda, insomma, tutto sommato me ne sono abbastanza reso conto. Tu, Puccio, tutta questa cosa per te sono inezie? Io ho difficoltà a capire la musica in quanto essere umano, figurati. Vabbè, ma senti, invece è una domanda, visto vabbè, che tu pure sei il cinema, però non solo la musica, tutte le arti, diciamo. Vabbè, allora, sta cosa del cinema siete andati a vedere follemente, ragazzi, perché io sì. No, io non vado al cinema ormai da parecchio, ma recupererò, però. No, invece volevo chiedere a Puccio, visto che è arrivato dopo che ne avevamo già parlato, ma sei più triste per la morte di Bruno Pizzulo o di Eleonora Giorgi? Di Bruno Pizzulo. Beh, dai, comunque è stata la voce che ci ha accompagnato tante notti, di solito d'estate. Beh, pure la coscia di Eleonora Giorgi ci ha accompagnato tante notti d'estate. Ma lì, diciamo, più l'accesso. Invece Pizzul se diciamo ti accompagnava le notti d'estate c'avevi qualche problema, secondo me. Io per carità so gusti, però. Sì per carità, però stavi mischia furibonda, sì. Fallo laterale, ma vi ricordate che si diceva che portasse sfiga? Benvenuto, non è che si diceva, è che in realtà l'Italia non ha mai vinto durante il suo mandato, diciamo. Non abbiamo vinto proprio niente con Pizzul, no. Poi è stato pure lungo il mandato di Pizzul, perché però ragazzi scusate poi... però a livello di club sì, vabbè, c'è stato, perché c'è stato il però quando a livello di club il Milan stravinceva eccetera, e la Coppa Campioni all'epoca era credo appannaggio di Mediaset o Fininvest, che era all'epoca, e quindi Pizzul non commentava, o perlomeno non sempre, la Coppa dei Campioni andava in Rai, quindi credo che Pizzul non le abbia commentate quelle finali, tipo l'Intercontinentale. No, allora l'Intercontinentale no, ma le partite di Coppa dei Campioni del Milan con lo Van Basten, Rai, Gargullit, erano sempre su Rai ed era Pizzul che le faceva. Questo mi ricordo di Coppa Campioni? Sì, me ricordo bene, perché erano le uniche partite che mi guardavo. Vabbè, quel Milan, raga, cioè nel senso era difficile non vederlo, insomma, no? Vabbè, era anche bello, sì, era sì, anche bello, anche simpatizzare, tutto sommato. Grado Sacchi era un Milan, mamma mia, sì è vero. Poi dopo piano piano Mediaset ha cominciato a fare lo sport, che vi ricordate che c'erano i primi anni che proprio non vabbè c'era. Ma Mediaset, cioè i primissimi anni di Fininvest, vi ricordate che Berlusconi comprò il mondialito, cioè questa invenzione tipo degli arabi, bravissimo, per vedere la vecchia calcio, lo sai che quello però lì. Lo sai che quello era un evento FIFA? Era un evento ufficiale FIFA, però ovviamente over X. Era un evento commerciale, sì, però sì, cioè aveva una connotazione non canonica. Non mi ricordo come, infatti se ne fece uno solo. No, mi pare due edizioni, di cui uno ne fecero in Brasile, tra l'altro che a un certo punto dovettero interrompere le partite perché c'era gente che se venava sui spalti, cioè vabbè, il Brasile era un paese folle, cioè. Però ecco, me lo ricordo, c'erano tutti quelli dell'80. Ma non era in Argentina che ci fu tipo il colpo di Stato, c'era di mezzo addirittura Licio Gelli? Perché tra l'altro in mezzo all'organizzazione del mundialito e alla cessione dei diritti per l'Italia delle trasmissioni a Fininvest, c'era Licio Gelli, ragazzi, mica una cosetta. Ma tutto in famiglia. Io non lo so. È venuto in tre edizioni, dall'81 all'87, ed è stato vinto quello per club da Inter, Juventus e Milan. Penso. Vabbè, comunque, è proprio Inter e Milan. Volevo dire che l'altra sera, non parlerò della partita, non state tranquilli, però l'altra sera ho visto Milan-Lazio a San Siro. Ovviamente è cos'è che mi ha attirato molto l'attenzione e sulla quale vorrei anche... La moglie dell'arbitro? No, a parte quello, insomma, tutto sommato... Non è tanto quello, è il fatto che ovviamente il Milan, i tifosi del Milan sono in contestazione feroce contro la società, perché sono riusciti a far peggio della Roma. Esatto, infatti sono stati riccamente superati. Durante la partita ovviamente i tifosi, il gruppo ultra è entrato 15 minuti dopo, e da lì in poi quando sono entrati hanno cantato solo esclusivamente per tutto il tempo dovete vendere e via dicendo. La cosa che mi ha veramente lasciato un po' turbato, questo è un po' il simbolo del calcio moderno che magari tante volte critichiamo, no? È che negli spalti vuoti l'unica striscione che c'era è solo la maglia, cioè nel senso che i tifosi erano lì solo per la maglia, e il Milan si presenta con una maglia che non è la maglia del Milan. Si presenta con sta maglia che praticamente c'è i colori del Portogallo, sul simbolo di lato invece che scritto Milan c'è scritto Diavoli. Cioè sembrava una cosa tipo dei PES che non c'ha le licenze. Esatto, sto per dire. Allora, io non so bene perché fanno queste cose, perché se vai a leggere la descrizione, quella è addirittura la quarta maglia. Allora, o è perché cercano di vendere più gadget possibile. No, è marketing. Cioè. Appunto, cercano di vendere gadget, ma secondo te no? Però un po' di intelligenza, ragazzi. Considerando poi che, vabbè, non credo che i tifosi vorranno mai una maglia del Milan di quest'anno, e io continuo a schiacciare un tasto che non dovrei, ma non riesco a capire il coraggio di presentare quella maglia bruttissima. Sì, perché qualcuno se la dovrebbe comprare, al di là del fatto che la stagione è disastrosa e quindi sarebbe l'emblema di una stagione disastrosa? Ah, secondo me la mettono semplicemente per non farsi riconoscere, ma soprattutto perché ci scrivi Diavoli invece che Milan, per non farsi riconoscere. Cioè, sono Diavoli, ma il Milan no. Pure scherzavamo prima con Puccio, cioè sembra veramente la maglietta fatta in un videogioco di calcio che non c'ha le licenze. Cioè non c'è sì, tipo il Piemonte Calcio, sì, esatto, però una cosa del genere, ci potevano scrivermi Milano Rosso. Mi pare che adesso c'è solo la Juventus. Vabbè, ho capito, c'è stato un giro strano. Vabbè, lì poi è tutto magna magna, ma non ci frega niente. A me questa cosa mi ha fatto veramente impressione, perché in un momento in cui c'è una crisi societaria, sportiva così importante, dove non c'è più c'è una frattura importante con i tifosi, tu che fai? Invece di presentarti, dato che c'ha scritto lo striscione solo la maglia, invece di presentarti con la maglia tradizionale, presenti con sta roba che io li guardavo e dicevo, ma che cazzo sono me? Ma poi, ma che cos'è sta roba? Ma che vuol dire? Penso che le due cose fossero completamente sconnesse. Io non so come, con quali principi si decide la maglia che si indosserà. Ovvio, cioè la maglia, la tenuta in casa è quella, è la prima maglia. Ma sì, dai, cioè lì c'era qualche. Se si arrivi ad avere tre maglie diverse per il fuori casa, credo che ci sia una strategia concordata con lo sponsor tecnico. Sì, questo sicuramente. Per calendario, per calendarizzazione stabilita a prescindere, la quarta maglia, quella di quella partita, doveva essere quella. Non penso che ci fosse, diciamo, tra virgolette, premeditazione o potere di cambiare. Mister Zero dice: la quarta maglia arancione, la più venduta fuori dall'Italia in collaborazione con Off-White, che non so che cos'è Off-White. Non lo sappiamo manco noi, però insomma. Comunque, al di là di questo, poi ci sono questioni legate. Certo, ragazzo, se è la più venduta fuori dall'Italia, devono essere daltonici i tifosi, perché veramente. Ma magari alla gente la maglietta tradizionale, cioè nel senso, ovviamente il Milan cerca di farsi riconoscere magari in certi paesi, come magari paesi arabi, con colorazioni e marchi diversi, anche perché alla fine c'è marketing, sti cazzi ci sta. Però voglio dire, la difesa dei colori, i colori sono importanti, raga, fanno parte della storia del club. Boh, io questa cosa non la capisco. Comunque poi una volta farò una puntata del Grande Reset su Theo Hernandez, ragazzi, perché sono uscite delle cose incredibili di cui non parla mai nessuno, e sta cosa non la capisce. Questo ammassa, botta la gente, picchia le ragazze e via dicendo, e nessuno gli dice niente. Comunque, vabbè, al di là di questo, l'immagine finale della partita è stata Leao, che praticamente va per battere un fallo laterale. C'ha la palla. Fallo laterale! Esatto, bravo. C'ha la palla praticamente messa nel dischetto. Hai visto? E adesso a bordo campo sono tutti i dischetti a distanze, così tu non devi aspettare il raccattapalle, puoi andarti a prendere direttamente il pallone. E lui era vicino a uno di questi dischetti col pallone, e che fa? Si incazza con raccattapalle perché non gli è stato il pallone. Cioè, lì proprio c'è un distacco dalla realtà di sta gente. Proprio una follia. Comunque, vabbè, non ho idea, però sì, magari poi ti seguiremo a raccontarlo, perché sì, sinceramente no. Con tutti i problemi e le vicissitudini, no, locali, però penso, mi preoccupo del no, Milan. Ma non è una questione di preoccuparsi, è proprio che fa impressione vedere determinate cose. Tu stai lì, comunque, dici, oh, mi guardo una partita, no, sono appassionato, mi interessa, no? Poi non è che a me il Milan mi sta particolarmente simpatico, però tutto sommato, cioè, appunto, parlavamo prima di Rijkaard, Gullit, Van Basten. Cioè, comunque fatto, cioè, è stata un po' la squadra di tutti per un periodo di tempo, no? Cioè, è che c'è, però, Simone, io forse sono una di quelle persone che il calcio l'ha un po' lasciato perdere. Qua, più o meno, non dico quando Bruno Pizzul ha smesso di fare le telecronache, ma pochi anni dopo. Quindi, se tu mi chiedi di avere ricordi del, diciamo, di quando, diciamo, fino a, no, indicativamente, ai mondiali del 2006, io mi ricordo più o meno tutto, ma se mi chiedi qualcosa del calcio degli ultimi anni, io sinceramente non ti so rispondere di niente, nemmeno della Roma, cioè proprio non lo so, Invece io vorrei una vostra opinione, da Marco partiamo, stavolta che è un po' che sta zitto, del fatto che tantissimi influencer italiani, influencer in senso tecnologico, quindi tutti quelli tech, penso di Maranza, no tutti tutti quelli, insomma, tipo Dale lì, come si chiama, insomma Tech Dale, diversi hanno praticamente comprato questi robot o da Tesla o dalla Cina. E ho cominciato a vederne uno di video un po' di tempo fa, ma mi sono rotto il cazzo dopo 5 minuti. A parte quello, no? Poi dopo che non aveva neanche aperto il pacco. Hai spacchettato, l'hai tirato fuori, funziona. E poi ovviamente non c'è un software che li gestisce sta roba. E quindi praticamente poi dopo... Non è neanche un sex bot. No, perché sono proprio cazzo. Robot fatti proprio robot. Niente. Che poi alla fine, no, del video tutti dicono adesso vedrò di capire cosa farci, poi ci farò un altro video sopra. E ci hai speso $15,000. Evidentemente gliene tornano più di 15,000, se no non c'ha senso, no? Sì, ma poi c'è tutta sta fregola di comprarsi sti robot. Tu hai visto quanta gente ha veduto? Ma tutto, cioè, quel video? Non è che si tratta di un Mac che costa 4,000 euro, che alla fine la gente la invogli e quei 4,000 euro magari li spende. Rientrano comunque anche visualizzazioni, o magari gli arriva la mazzetta da Tesla, gli arriva la mazzetta da qualcuno. Sì, ma qual è l'elemento promozionale in questa cosa? Stai a vendere un robot che nessuno si comprerà. Chi se lo compra 20.000 euro dei robot per un cazzo? Ma io non lo so se posso dire che non lo so, non ci credo che se lo siano comprato, perché è vero che monetizzando i video recuperi, però mi sembra che, insomma, bisogna vedere quanto recuperano. Beh, perché io, probabilmente o recuperano, cioè nel senso che se sbattono il cazzo e probabilmente ci guadagnano di più. No, mi pare che qualcuno ha fatto vedere pure la bolla, la fattura, via dicendo, ma al di là di questo sono fatto come Amazon, lo rimandano indietro entro 30 giorni, ma non credo, ma anche se gliel'hanno mandato, cioè voglio dire, è proprio l'operazione che è costosa e insensata. Cioè, che cosa mi stai a proponere? Cioè, che mi fa vedere un robot che dopo che l'hai acceso cammina e col telecomando lo mandi avanti e indietro e se china e fa squat. E dopo che... Ah, che dire? E poi Tech Dale in particolare, che praticamente gli metteva addosso dei vestiti e cose, cioè lo bullizzava quasi. Cioè, ma quello magari un giorno diventa anzilone e te spacca il culo. Cioè, ma magari... Cioè. Puccio, tu che ne pensi? No, io sto giocando con il mio robot. Sto giocando, sì, no, scusami. Stavo montando Optimus Prime. No, scusate, Optimus Prime, un cazzo. Commander, per favore. Cioè, io Optimus Prime ho dei problemi seri. Nonostante sappia che sia il nome vero, e quindi vabbè. No, io ogni volta che vedo quei video, cioè provo questo senso di invidia devastante, cioè proprio fortissimo. Cioè vorrei avere quella disponibilità economica per comprare quella roba e poi dire vabbè, l'ho preso, l'ho montato, poi devo capire che ci devo fare. È il senso di questi video, alla fine ti dicono vabbè, adesso cercheremo di capire cosa farci. È un po' come quelli che vanno in giro a fare video che regalano i soldi, cioè più o meno la stessa cosa. Io pure quell'altra cosa che scusate, non capito, posso fare una parentesi, perché di sta cosa ne abbiamo parlato nella chat nostra, no? Allora, io per tutta una serie di motivi che non vi sto qui a spiegare, ho avuto accesso a un Samsung Arc, un Samsung 55 pollici curvo G9, l'Arc, ok? Io quando l'ho preso avevo bisogno di vedere i video su YouTube per capire come calibrarlo, no? Le funzioni, queste cose così. Ed era pieno di video di gente che diceva no vabbè, lo abbiamo preso in maniera sperimentale perché volevamo vedere in ufficio i giochi, la modalità gaming. Alla fine mi sono reso conto di una cosa, che è la stessa molla che ha spinto molta gente a comprare il visore della realtà virtuale di Apple, che costa una madonna. In pratica tu negli Stati Uniti per 30 giorni puoi restituire determinati prodotti senza nessun rischio, cioè senza domande, senza giustificazione, puoi prendere e ridarglielo indietro. Quindi io penso che molti di quei video nascano così, perché poi magari... In questo momento la base è alta a livello intollerante, Io ce l'ho sempre, guarda, sta a 2 più di questo. A un certo punto ha sovrastato Puccio, non so, vabbè. No, ma l'ha fatto apposta perché stava di casa. Esatto. Non lo dovessi conoscere dopo tanti anni. Non è che... Comunque, il discorso è che lo capisco. Può anche essere che dicono, vabbè, tanto lo dobbiamo restituire. Allora, diciamo, che, diciamo che questa è una cosa che si faceva. Ma anche molti degli influencer che hanno recensito l'Apple Coso Pro hanno fatto così, cioè l'hanno preso, l'hanno preso e riportato indietro. In generale questa è una cosa che si è sempre fatta, soprattutto perché quando erano nati i canali YouTube che facevano le recensioni, tutti volevano fare queste cose delle recensioni, e c'erano poi quelli che facevano i canali YouTube che gli dicevano: ora ti spiego io come fare il canale di recensioni di successo. Quindi tutta la gente che prendeva queste cose le rimandava indietro, che poi tra l'altro questa cosa a un certo punto in Italia ha creato anche problemi con Amazon, perché cioè, diciamo che a quelli che riacquistavano ovviamente magari erano pure contenti, perché diceva vabbè, tanto lo prendevano a di meno. Però in generale chiaramente tu crei un danno a una struttura, no? Perché facendo una cosa del genere. Quindi fosse ben meglio sta cosa dei resi, la gestirei in una maniera diversa da parte di Amazon, però so cazzi loro. Però questa è una cosa che puoi fa su prodotti, capito, dei 4, 3, 4 mila euro, cioè lo posso pure capire, oppure un'infornata dei prodotti dei 3, 4 mila euro. Ma qui stiamo a parlare di roba di 10, 15 mila euro, insomma io la vedo difficile che in un'industria, una fabbrica si metta lì a assemblare un computer e speditelo per poi farselo ritorno indietro, insomma, cioè, è proprio che no, lo fanno Simo, fa parte degli investimenti marketing, lo fanno sì, ma cioè una cosa è magari è Boston Dynamics, ma una cosa è la fabbrica cinese che ne fa 10 all'anno di sti cosi, capito? Cioè qual è il problema? Tu pensi che ne facciano 10 all'anno? No, vabbè, ma non in realtà tutti... stanno facendo un esercito di robot pronti a conquistare. Quello è un altro discorso, certo. Perché questi poi dice no, perché non c'è il software. Questi dentro. Sono quelli difettosi. In eh? Realtà il software dentro c'è. C'è sta. Ma tu non lo sai, perché quello poi di un giorno mattina ti svegli e ti incula. E ti ammazza. Cioè, ma non saprei mai che perché. Madonna. Ragazzi, mi avete ricordato un'esperienza molto bella della mia vita in questo senso, cioè, di software. Ti sei colato un robot. No. Non so se sapete, la Corea del Nord c'ha un suo sistema operativo che si chiama Red Star OS, non è basato su Linux. Detto pure Walter. Sì, ah scusa, ho capito Windows. Walter, no, di tutto Linux ho detto. No, tra l'altro Linux piena di spyware. Sì. Sì. Tra l'altro no, è disponibile, cioè nel senso se. No, se no, è appunto. Io allora anni fa con una persona che forse ci sta ascoltando, un mio ex collega, Michele Formica, lavoravamo in un'azienda. Non è Chiara. No. Chiara non penso faccia queste tante secondo me Chiara ha smesso di ascoltare, giusto? No, ti assicuro di no. Stavo a dire. Lo trovammo in uno dei repository di Linux, quelli pubblici, e decidemmo di provare a installarlo. Praticamente la scena è stata Michele, che era un po' emotivo, che voleva chiamare la guardia giurata dell'azienda dove lavoravamo, perché l'idea era: ora lo installiamo e lo accendiamo sulla macchina, ovviamente scollegata dalla rete. E l'idea era chiamare la guardia e dirgli: prendi la pistola, puntala al case del computer, se vedi che fa qualcosa di strano tu spara, perché noi non sappiamo che cazzo ci stiamo mettendo qua dentro. Dai, siete sistemisti, che cosa vi potevate aspettare? Ma che ne sai? Ma in realtà non so se avete saputo, perché se andate a vedere i video su quel sistema operativo su YouTube, che tipo mette i codici univoci sulle foto, sì, tu tutto, è tutto pensato per essere mandato al partito. Sì, è da studiare. Oh, la base, Pizzi. Ma perché fa così? Io non riesco a capire se è un autoincremento. Io in realtà sento normale. Sì, noi da remoto è bassissimo, io non so che fa. Si alza all'improvviso. È Google, io ti ho detto che è Google. No, per carità. No, vabbè, la posso levare, oltre a levarla non posso. No, ma non so, io magari chiedo agli amici in chat se ci stanno ascoltando. No, non si sono addormentati. Se succede anche a loro nella diretta, sentite questi picchi della base musicale, se no vuol dire che. Sai che cosa è, Walter? Simone sta rivivendo un momento della nostra vita in cui abbiamo attraversato la Svizzera ascoltando la radio e abbiamo scoperto che non c'era il sottofondo musicale. È vero. Lui vuole compensare questa cosa. Cioè, tutte le radio di lingua tedesca, quindi in Germania, in Austria, in Svizzera. Dalla chat mi dicono che loro resta normale, a noi ci spara nelle orecchie a un certo punto. Ma poi lo vedo, cioè, c'è il meter che sta sempre lì a due tacche, quindi più di questo non va. Cioè, non è che, però il problema è che sicuramente è un problema di Google. La prossima volta usiamo Discord, vediamo un po' se Discord. Ma questo è un comportamento che viene causato dalla fonte che trasmette, mica c'entra il... Vabbè, ma adesso non è che ci possiamo mettere a fare la scienza di questa cosa. No, no, poi, vabbè, e poi al pubblico non interessa. Ho levato la base, così almeno non ci abbiamo più. Adesso dobbiamo parlare in tedesco. Adesso vedrai, che sale la componente degli ascoltatori dalla Svizzera. Esatto. Cioè, allo Svizzero piace questo elemento. Più di questo non possiamo fare. Ricordi il gioco dei rubori a un certo punto? Io volevo morire. Mamma mia, comunque le porcate, cioè, veramente è triste la radio. Poi tra l'altro tu entri in Svizzera e tutti gli svizzeri italiani che ti guardano, ah tu italiano, ladrone, e poi tu senti la radio svizzera italiana, tutta gente arrestata per appalti, ma tutti svizzeri, cioè non è che dicevo, ci fai pure lo stronzo che alla fine siete più zozzoni dei... ma loro li arrestano però. È vero, questo è vero. E poi sarà pure vero che noi italiani, baffi neri, mangia pizza, suona mandolino, però 2 euro per pisciare all'autogrill. Porca puttana, mica solo 2 euro, il famoso tasso di cambio 1-1 marco dollaro. Sì, madonna mia. È bellissimo, insomma, sta cosa. E tra l'altro siamo entrati in una... Allora, ogni tanto lo raccontiamo, siamo entrati dentro sta... mi fa ridere, siamo entrati dentro sta autogrill e siamo usciti con 100 euro di meno, cioè così. Sì, senza neanche comprare la palla di prosciutto, cioè, una cotoletta, siamo entrati e usciti 100 euro, così proprio pam, e la signora non ci voleva dar resto perché non si usa, infine. Esatto, e perché poi il cambio era 1-1 e poi, però pure quando tu devi cambiare i soldi vanno al bagno, perché ovviamente mi dai i soldi, sì. Esatto. Un euro era un franco, un marco, che cazzo era, insomma, vabbè. Un franco. Si fa presto però, a diventare, cioè, la nazione ricca, così. Però diciamo io che continuo a ripetere la grande civiltà della Svizzera che c'hai i cessi su, esatto. I cessi sull'autostrada. Io ancora oggi li ringrazio per questa cosa, che so. Che a un certo punto si vede Puccio che accosta sta macchina e va a cagare, scavalca il guardrail dell'autostrada, dico che cazzo sta a fare, è andato. Però comunque non siamo stati bene l'ultimo giorno, ma anch'io non stavo bene, quindi... Vabbè, tu ti sei trasformato in pizzicottina dei Simpson e ci siamo fermati a Milano, cioè non è mamma che... Mamma mia, che brutta storia, ho preso tipo 38 di febbre, non so, poi non mi passava più, quindi era tipo una specie di Covid, ma ho preso... Un pre-Covid. Comunque... Vabbè, ci dicono dal pubblico, perché parafrasando un podcast di grande successo, questo è il momento che invece che cagare in discoteca, cagare in autostrada. Esatto, ma il problema è che il format del racconto delle cagate l'abbiamo inventato noi in Runtime by Night, quindi insomma andassero a fanculo amici di Timoria, come cazzo si chiamano, Esatto, Marco, sta per iniziare The Last of Us. Ma davvero? La seconda stagione. E quando comincia? Tra poco, come sti cazzi? Oh. Vabbè, oggi è iniziata non è un reboot, è il seguito di The Devil. Devo recuperare. Quello lo voglio vedere. Questo, i primi 2 episodi stamattina, bello. Lo vedrò nei prossimi giorni. Bello detto da Buccio, vuol dire. Per ora bello, no, perché è molto in linea con la prima stagione Netflix, esatto. Come... Non con la seconda, con la terza, spero con la prima. Investimento produttivo tiene il passo delle migliori serie Marvel o ormai ha... No, tiene il passo di Daredevil di Netflix per ora, però c'è da dire che l'ambientazione è completamente urbana e a parte per ora in 2 episodi che hanno pubblicato 4 scene di azione molto ben coreografate, tipo quella quella famosa del corridoio nella prima stagione di Daredevil. Per ora è una serie dove hanno parlato e dove hanno presentato la situazione di New York e dei personaggi. E hanno introdotto un elemento che era stato tenuto sotto traccia, cioè che comunque al di là dei supereroi che noi vediamo nei film, eccetera, eccetera, per l'America, per New York, c'è un sottobosco di eroi urbani minori, tipo la Tigre Bianca, Hector Ayala, insomma. Vabbè, tutta la manica dei matti che vanno in giro. Sì, giro a pestare gente. Però vestiti così nessuno li riconosce, insomma, vabbè, ma tanto che mo' quella tendenza negli ultimi 15 anni è dire, no, è un segreto, ma sono io Daredevil. No, ma il fatto che praticamente nei fumetti e nelle serie il fatto dell'identità segreta è una cosa molto molto molto più sfumata adesso. Cioè, no, tipo, non è sfumata, poi l'hanno proprio perché lo sceneggiatore per alcuni si è convinto che praticamente il pubblico non può sopportare questo stress che gli altri non sanno chi è. Perché io, sì, no, ragazzi, negli ultimi 15 anni ho visto tantissime serie, a partire da Arrow, che c'è, cioè, il segreto, e la seconda puntata lo sapevano tutti, cioè, ma mica solo quello, tantissime altre serie. Tutte le DC, cioè, l'avevano dato pure Flash, insieme. Allora, Flash io lo dico sempre: la prima stagione di Flash erano, che beh, collegata 21 con Arrow, 21 puntate. Abbracci ogni puntata, no 21 puntate, poi li ho contati perché per cazzo mi sono messo a contarli. È riuscito a rivelare la propria identità a 22 persone differenti, tra cui due cattivi e la madre morta. Quindi, cioè, regà, io ho alzato le mani e ho detto che lì la madre muore, da giovane, da bambino, no, invece su Arrow la madre guardate muore. Se vi va, cioè, una serie che è stata ristampata in volume unico, diciamo, dell'etichetta adulta della DC, che si chiama Human Target, che parla di un personaggio che, diciamo, non ha grandissimi superpoteri, però siccome è bravo a sopravvivere, mettiamola così, viene spesso utilizzato come controfigura da gente che ha ricevuto minacce di morte. Allora, la serie inizia con lui che sta interpretando Luthor, perché Luthor ha avuto delle minacce di morte in un evento pubblico, e lui, riflettendo, dice una serie di cose, tra cui: ma io sono sicuro che anche Bruce Wayne riceve un sacco di minacce di morte, però non mi ha mai assunto, e fino ad adesso nessuno è mai riuscito a farlo fuori. Che fortunato bastardo. Va bene. Comunque, non so perché su Netflix hanno messo, sul canale Netflix di YouTube, hanno messo i primi 5 minuti del Gattopardo, e devo dire che... Perché il remake... Sì, no, certo, no. Quello di Visconti mi sembrava strano. No, grazie al cazzo, ragazzi, nel senso che perché mi fai vedere i primi 5 minuti? Che però... I primi 5 minuti mi hanno fatto venire la voglia di vederlo, quindi me lo vedrò. Adesso sai perché. Esatto, però voglio dire, cioè, nel senso, fammi vedere qualcosa di più. I primi minuti, di far vedere i primi 3, 4, 5 minuti di un film, di una serie, è una strategia abbastanza diffusa. Alle volte anche in televisione ti fanno vedere i primi 3 minuti del film in uscita al cinema. Lo so, però io e Gualdi eravamo abituati. I primi 3 minuti di Don Matteo. Io e Gualdi siamo stati abituati di aver visto in streaming su YouTube la prima puntata intera, in esclusiva, evento esclusivo. Era quello che esorcizzava la gente che ha preso a cazzotti i ragazzini. Sì. Che cazzo, scusate, che cos'è sta cosa? Quello che esorcizzava le persone. No, c'era questo tizio che faceva esorcizzare nella prima puntata: esorcizza un bambino a cazzotti. Cazzo, è Don Zauker. Non lo so, magari, guarda, io lo so, però si può sbottare le righe, ma non dovevamo ridere. Esatto, cioè, doveva essere una cosa che doveva fare paura, inquietudine, però siamo stati tutto il tempo a ridere. Questa cosa è una serie che penso abbiano fatto una stagione, due. Sì, no, però doveva essere una cosa. Immaginando la scena, esci da questo corpo, no, perché tipo lo insulta, no? Il bambino di Nepal, no, ragazzino, gli salta addosso e lui lo scaraventa via, lui a cazzotti. No, ma poi tra l'altro doveva essere pure una serie evento, è figo sta serie, però non mi ricordo che serie era, insomma. Totalmente figa. Avete ricordato, qualche giorno fa c'era un video su TikTok, credo, con le migliori recensioni di Doom Eternal prese da Steam. Una di queste era: sono un prete cattolico, adoro giocare a Doom Eternal perché mi permette di far capire a Satana chi comanda. Vabbè, comunque. Allora, ragazzi, stavo guardando perché ce l'ha postato sulla nostra chat Mr. Mago Slow. Il Gattopardo, il remake, c'ha un cast. Sì. Il principe di Salina è Kim Rossi Stewart. Angelica è Deva Cassel, che è la figlia di Vincent Cassel e di come si chiama la nostra attrice? Di Monica Bellucci. E poi c'è Benedetta Porcaroli, che è Concetta, vabbè, però insomma, un po' così, vabbè. Ah, guarda, io da quello che ho visto è molto recitato veramente bene, cioè perlomeno i primi 5 minuti, poi magari dopo. Ma è un film in questo caso o una fiction? No, penso che sia una serie. Penso sia una serie. No, è una serie. Vale, ho capito, ormai è tutto. Dovrebbe essere 5 puntate. Quindi, come al solito, la prima sarà un'introduzione, nella seconda, terza, quarta non succederà un cazzo, perché quello è la cifra di Netflix, e nell'ultima cercheranno di concludere. Oh, allora ragazzi, non voglio guardare perché Sparno ha fatto la recensione. Ma funziona con Netflix, funziona così. Vabbè, ma vediamo, no? Cioè, nel senso, io me lo vedo, poi dopo vedremo. E comunque, vabbè, dicevamo, insomma, che sta per arrivare The Last of Us, che insomma, la seconda stagione, siamo tutti un po' in fermento, però diciamo, è arrivata un po' in sordina, cioè, nel senso, fino a che non l'hanno proprio annunciata la data, che ancora non mi ricordo, però dovrebbe essere veramente a poco, dovrebbe essere fra qualche settimana. The Last of Us, credo aprile, può essere. Sì, dovrebbe essere 4 aprile. Vedi, ragazzi, ci siamo quasi. Guardi, sei contento? Che bello, se io so già come finisce. Infatti noi non spoileriamo. Non spoileriamo. Sì, guarda, lo vedremo, dai. Ah, certo che lo vedremo, come ci siamo visti anche la serie televisiva dell'Esorcista, te lo ricordi, Gualdi? Sì. No? Quello vero, nel senso sequel dell'Esorcista sarebbe la serie sequel dell'Esorcista. C'era pure lei che è quella, la madre della protagonista, in incognito, però la madre della protagonista che era quella del film, cioè del, insomma, proprio l'esorcista, l'esorcizzata. No, non mi ricordo bene. Come ci siamo visti Creators the Past, vabbè, ragazzi, ho capito, lo stiamo quasi rivalutando. Sì, beh, guarda, devo dire, vabbè. Ragazzi, siamo arrivati che stiamo arrivati a Berlusconi, vorrei dire. Perché sai, fino a che era Bettino Craxi o che ne so, Andreotti, insomma, Berlusconi. Però Berlusconi intanto c'ha l'aeroporto e noi no, quindi questo, insomma, bisogna riconoscerlo. Io andrei. Ma se io vi ricordo, e la chiudo lì poi perché dico sempre le stesse cose, preoccupiamoci perché probabilmente la famiglia Berlusconi, gli eredi, diventeranno l'ultimo baluardo alla deriva fascista in Italia, perché Marina qualche posizione la sta prendendo. Per Silvio sappiamo che, insomma, è un po' più per Silvia che per Silvio, quindi ci tiene. Andiamo a vedere. Beh, sì, va bene, abbiamo parlato. Comunque loro hanno questa visione più libera. Ragazzi, è la base quella di chiusura. Quindi va. No, l'introduzione di un film. Non rompete i colori. Assolutamente. Esatto, sì, va bene. Comunque, poi li osserveremo. Fallo laterale in questa posizione a 90 gradi. Esatto, poi la risolveremo con Google sta cosa. Se no, proviamo Discord la prossima volta e vediamo. Tanto lo devo utilizzare per altre cose. Quindi, ragazzi, io direi che è stata una serata vivace. Sì, infatti, basta, bisogna chiuderle prima queste puntate, perché poi dopo 40 minuti comincia a diventare pesante. Quante ne abbiamo fatte stasera? Sono le 1:15, troppo. Mamma mia, che stanchezza. Vabbè, che però stanchezza. Marco, salutiamo quelli che questa sera ci hanno fatto compagnia, non infatti. Sono stati pochi, c'erano Luca S, Mago Slow, c'era Domenico, allora. C'era Michela che prima, basta, insomma, basta, tutta stagione, basta, non c'è interesse. Tu sei sicuro che li vuoi giro, insomma, c'erano, dai. Non lo so, io non sono convinto di volerli salutare, perché devo dire la verità, secondo me Sono vestiti bene. Noi abbiamo un problema con loro, chiaramente. Sì, perché guarda quanto sono eleganti, guarda quanto sono eleganti. Mamma mia. Un po' di cose, insomma. E poi voi avete un problema con il vostro paese, quella è una cosa che forse non vi rendete assolutamente conto. Detto questo, ragazzi, io vi do appuntamento a fra un paio di mercoledì, perché mercoledì prossimo mi serve lo spazio. Che devo fare una puntata. Per paragrafare un grande statista, ti serve spazio vitale. È tutto torna. Uno che baffetti. Va bene. Quindi, però non lo so se te lo concederò, ci devo pensare. Va bene, ma io mi sovrappongo. Io mi incatenerò al mix. Esatto, che vabbè, ma io ti metto la base alta, così poi dopo provi del fastidio. Detto questo, ringrazio Marco Gualdi e il suo terribile vestito. Assolutamente, guarda, penso che mi farò una bella camicia nera. Ti piace la camicia nera? Va di moda questo periodo. Tengo la camicia nera. Bravo, saluto nero, tengo Walter Sbano e con la sua bruttissima felpa, che insomma non è abbastanza, no. Non ce l'ho la felpa, c'è il maglioncino, che vabbè, schifo, fa schifo pure il maglioncino. Bravo. E poi saluto invece Carmine Puccio Console, che è arrivato grande figlio di putiniano. Io in tutto questo non vi ho sentito dire grazie nemmeno una volta. È vero, e questo crea un problema. È un problema. Gli americani hanno un problema con noi. Un grosso. Aspetta un po', mamma, ma poi che ti vedo bene, no? Sotto sta luce che c'è. Quale luce? Sei sicuro che sei vestito? Secondo me non. C'è un problema così. Secondo me c'è pure tu un problema. Io ho la felpa di riducibili. È un problema, Buonanotte. Grosso problema. Ciao. Ciao ragazzi, buonanotte. Notte. Un tempo molto pop, lo aspettavo.